140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteri R24, ma anche la nostra pagina Facebook 140 caratteri. Musica e televisione in questa puntata. American Bar, Milano. Attrice di musical, cantante dei Mattia Bazar, insegnante di canto. Ora però gioca da sola col primo singolo, Controtempo, Roberta Faccani. Sono stata sempre all'interno di progettualità altrui e quindi in qualche modo in cose già conclamate che avevano una loro direzione ben precisa, nelle quali io navigavo alla mia maniera, apportando quello che poteva essere un mio personale contributo, ma sempre con la testa pensando al giorno in cui avrei potuto fare qualche cosa di mio. Si parte con un singolo, intanto, che però anticipa un lavoro più grosso. Che cosa sarà? Ma io volevo andare in radio con 800 canzoni, adesso fate questa o mettete quest'altra. Poi ho detto no, se ne parte da una. Ah, peccato! Sì, partiamo con un singolo, ovviamente, che vabbè, ma Controtempo, che è questo primo pezzo dell'album che poi uscirà a brevissimo, è un gioco, nel senso che ci andava di far capire che Roberta Faccani c'era, che era non solo in teatro, perché in questi ultimi 2 anni ho fatto musical, che è l'altra mia passione, e quindi via dalle tavole del teatro mi sono rinchiusa in studio di registrazione per fare questi brani, e è nato Controtempo, che è una storia d'amore molto simpatica, molto leggera, ma con una vena di ironia, per così parlare di come possono essere le storie d'amore tra due persone molto diverse che dici vanno male. No, basta con sto vanno male, vanno bene queste storie d'amore perché si completano, queste due persone così diverse. Ho voluto parlare di questa cosa qua, in una società dove tutto va male, diamine, parliamo una volta di una cosa che va bene, perché ci sono delle famiglie, delle coppie che in fondo nel sottobosco sociale vanno bene. E quindi ho detto, beh, è una canzone molto estiva, molto allegra, molto ritmica. Facciamo un primo antipasto per i miei fans che mi hanno aspettato tanto, il pubblico che ancora non mi conosce. Avevo voglia di farmi risentire. Tu sei scirocco di uragano che ti sconvolge se ne fa. Io corro sempre, tu vai piano. Un'astronave nello spazio e tu sei morbido sofà. Siamo così, io qua tu lì. Poi il resto, sono curiosa di sapere se lo spirito sarà lo stesso, lo spirito positivo al di là dell'area dei tempi, che invece è un po' cupa. Bella questa domanda. Guarda, l'album sicuramente è una miscelanza di tante cose. Intanto di tutti i sentimenti che ho provato in questi ultimi tempi. Quindi dei momenti anche non particolarmente allegri, quindi il momento in cui ho avuto da dire delle cose tristi le ho messe su, proprio mi veniva spontaneo scriverle. Il momento in cui ho vissuto delle esperienze felici, di quello ho voluto scrivere, cioè tutto ciò che ho provato e tutte le tematiche che volevo da tempo sviscerare sono in questo disco. Anche quindi come vedo il mondo futuro, questo 2012, questo mondo che verrà. È una visione non apocalittica, perché io credo che alla fine vincerà il bene, perché l'umanità ha una risorsa continua dentro di sé che è il senso della vita che deve proseguire, quindi io credo fortemente in questo. E c'è una grande spiritualità in tutto l'album che ha invaso i miei giorni in maniera molto positiva, e ne ho voluto proprio portare testimonianza nel tessuto musicale e autoriale di quello che appunto ho voluto scrivere in questo album. Quindi sarà estremamente dedicato al il rinnovamento dell'anima, dello spirito, delle intenzioni, delle ideologie, del senso dell'amicizia, del senso dell'amore in senso positivo. Presto, molto presto, quella bimba sarà mia. Quante belle teste salteranno per la sua. Niente che adoppire, vendetta si farà. E l'infanzia che non ho avuto io, se nessuno sarà. Sei riuscita in tutti questi anni ad affrontare tante realtà diverse, tanti aspetti diversi e sempre sotto i riflettori, cioè tutti i tuoi cambiamenti sono sempre stati molto visibili. Beh, questo fa parte un pochino di chi fa questo mestiere, tanto ti metti sempre in gioco davanti a un audience di critici, di addetti ai lavori e di pubblico, per cui è un mestiere molto visivo, quindi alla luce del sole è normale che sia. Ma la cosa principale che ho provato è sempre la possibilità di far fronte alla mia capacità poliedrica di fare più cose, cioè non solo cantare, recitare, essere performer in teatro, che significa cantare, parlare, recitare, muoversi come farebbe un personaggio, oppure nella discografia essere efficiente e confacente a un progetto come quello dei Mattia Bazzaro, dove servivano certe caratteristiche. O comunque tutte le volte che mi metto a scrivere o canto un mio pezzo c'è una ricerca continua, lo vivo bene perché mi piace il mio mestiere, a me piace a 360 gradi, così come quando insegno ai miei allievi, perché ho una scuola nelle Marche, piuttosto che quando compongo per altra gente cercando di medesimarmi nello spirito, nella vocalità altrui. Sono tutti aspetti del mio lavoro che mi aggradano, cioè io non sono solo una cantante, non mi piace definirmi solo una voce, quella che canta su un palco per esibizione, no, per me c'è la musica in senso proprio da musicista, io lo vivo così. Devi dirlo che mi ami, devi dirlo che mi vuoi. Voglio credere in un bacio, dimmi ancora, ancora noi. Devi dirlo dolcemente, devi dirlo che mi vuoi, non lasciarmi naufragare. Come tu mi vuoi, il tuo corpo è come un fiume che accarezza la città, questo mio grido d'amore ormai limiti non ha, il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più, ma non dirmi che non senti la magia di quei momenti, quando il mondo siamo noi. Devi dirlo dolcemente, devi dirlo che mi vuoi, come il vento dall'Oriente, mi confondi e te ne vai. E poi c'è qualcosa che ti ha particolarmente segnato e qualcosa che rifaresti? Ad esempio, la butto lì, Sanremo lo rifaresti? Beh, chi è che non vuole fare Sanremo? Però stavolta lo presento, dirigo l'orchestra. Dirige l'orchestra Pinuccia Pirazzoli. No, vabbè, a parte gli scherzi, che sto scherzando ovviamente. Chi è che non vuole far Sanremo? Chi fa questo lavoro ambisce a un palco, se non altro perché c'è un'orchestra. Chi ama cantare dal vivo sa che ci sono dei musicisti sopraffini che ti accompagnerebbero in una maniera fantastica, quindi l'artista con la musica di un'orchestra si sente in paradiso. E poi ovviamente sappiamo essere quel momento di grande opportunità per arrivare nelle case di tutti in 5 giorni, quindi se hai un prodotto da esporre, la velocità di arrivare immediatamente a chi di dovere. Lo farei con un altro spirito, ovviamente non cercando di pensare alla gara, ma cercando di dire a me stessa: io vado a fare la mia cosa, questa sono io, vi piace? Ecco, speriamo di sì, che piaccia a voi come sta piacendo a me. Ho un'ultima domanda, visto che tu insegni, l'hai detto anche tu, che cosa insegni ai ragazzi? Loro cosa ti chiedono? Perché sicuramente il fatto di avere un insegnante come te per loro sarà un punto di riferimento. A insegnare ai giovanissimi è molto difficile oggi, le generazioni sono molto cambiate, nel senso che fino a qualche anno fa l'insegnante era qualcosa veramente da inseguire come un vate. Adesso ti guardano di sott'occhio all'inizio, che me vuoi insegnare? Cioè, so tutto, capito? Perché c'hanno internet, quindi vanno, conoscono tutto. Le generazioni vogliono qualche cosa in più da te. E la prima cosa che insegno è: non tutti possono fare questo mestiere. E che è una cosa difficilissima da digerire. Perché oggi si pensa, vedendo tante cose in televisione, che tutti possono aprire la bocca e diventare cantanti, tutti possono alzare la gamba e diventare ballerini, eccetera, eccetera, eccetera. Non è proprio così. E allora, successivamente a questo step, dico loro che ci vuole determinazione e umiltà, che non significa falsa modestia, ma umiltà di mettersi sempre nella condizione di capire che prima di arrivare c'è la ricerca della unicità. Se tu vuoi rimanere impressa, devi essere unica, cioè una persona unica, una voce unica, avere un repertorio unico è molto importante, perché oggi si fatica a assimilare artista a repertorio. Una volta c'era proprio, no? Questo lo può cantare solo Tizio, questo lo può cantare solo Caio. Oggi c'è un po' un'omologazione, secondo me è una delle cause per cui c'è un po' di crisi a livello discografico. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, musica e televisione, nella seconda parte del nostro 140 caratteri. La briciola a Milano. Per i più giovani è un autentico mito. A 18 anni, famosa in tutto il mondo, quest'estate lavora in Italia. Dall'Argentina, Laura Esquivel. Sono felice di questo successo. In realtà per me fare questi progetti di questo genere, tipo ballo, canto, recitazione, mi fa stare felice. Più che successo, non è un lavoro per me, è davvero divertente, no? Lo faccio con tutto il mio cuore. Per le persone, per vedere le facce delle persone con un bel sorriso, no? È quello. I ragazzi in Italia ti conoscono tutti, ma se dovessimo presentarti anche a qualcuno che ha qualche annetto di più e che magari non ha figli, perché invece i genitori ti conoscono, come sei arrivata ad essere un simbolo per i teenager? Hai un percorso molto particolare, Laura. Sì, io ho iniziato a cantare quando avevo 7 anni e poi ho iniziato a fare casting perché mi piaceva questo mondo della TV. E poi è arrivato il progetto, diciamo, della mia vita che mi ha cambiato talmente. Sono arrivata fino qua e sono felice di essere qui in Italia e fare i programmi, ballare, cantare. Voglio continuare facendo questo. Sai che di solito sono gli italiani che esportano gli artisti in Latino America. Questa volta, insomma, sono successe delle cose un po' diverse. Cosa ne pensi? Io penso che è una buona idea anche, no? Perché ci sono ancora tanti paesi forse che non si conoscono le persone che fanno anche belle cose diverse, perché ogni paese ha la sua cultura, no? Penso che sia molto bello, e questa possibilità che mi danno a me, in realtà agli argentini, è bellissima, anche perché si lavora molto bene qua in Italia, e anche perché conosco un sacco di persone e mi fa star bene. Sì. Allora, parliamo prima di quello che è stato e poi ti chiederò invece quali saranno, insomma, i nuovi progetti, perché il mondo di Patti è stato qualcosa di molto forte nella televisione, si è concluso, ma per te che esperienza è stata? Per me è stata l'esperienza più grande della mia vita e quella che mi ha aiutato ad essere così, no? E a poter continuare facendo queste cose nella TV. Patti sempre rimarrà nel mio cuore, spero che anche nel cuore della gente. È stato un personaggio molto carino che mi ha insegnato un sacco di cose positive sulla vita. Tu sai che con me non soffrirai, tutti i tuoi sogni raggiungerai, non c'è più tempo, vieni qua, ti divertirai. Giro, giro, non posso fermare. Invece ci sono altri due progetti, e di cosa si tratta? Bene, adesso ci sono bellissimi e nuovi progetti su Super, un nuovo canale molto divertente per i ragazzi, adolescenti. Io farò due programmi, uno che si chiama La Posta di Laura, in onda dal 16 luglio, adesso manca pochissimo, e poi faccio anche il Giro Giro Tour, in onda dal 3 settembre, manca un po' di tempo. Faccio tutto, faccio ballo, canto, faccio la conduttrice, parlo l'italiano, allora un sacco di cose. È difficile, ma è la mia passione, dai. Ma la Posta di Laura però è delicato, devi rispondere, ti senti preparata? Perché insomma è una cosa delicata. Sì, quello che mi è piaciuto a me sempre nelle interviste è poter consigliare, dare dei consigli sempre ai ragazzi che hanno qualche problema della vita quotidiana, e avere la possibilità di farlo anche sulla TV, perché per esempio c'è Twitter, Facebook, no? L'internet è molto importante per far vedere questi consigli, ma sulla TV è più carino e serve molto, anche perché con il mio personaggio Patti c'erano tante cose da dire su questo personaggio, tante cose buone e anche brutte, e questo mi ha aiutato anche ad aiutare i ragazzi che mi vedono, no? Voglio far bene, no? Cose belle per i ragazzi. Cada vez que pienso en ti siento una locura, locura. Son los acordes de una canción que cada día me curan, locura. Cada vez que pienso en ti, cada vez que pienso en ti. Cosa, come li vedi questi ragazzi di oggi, visto che insomma hai tra i tuoi fan anche ragazzi più giovani, più piccolini, insomma è delicato essere un loro esempio? Sì, molto delicato. Io sempre come tutti noi, come tutte le persone, tutti possiamo fare le cose bene e male, ma io sempre voglio essere la bella figura, diciamo, perché se sei un esempio per loro, questo aiuta loro anche a crescere e avere dei pensieri positivi sulla vita e per essere felici, no? studi di Radio 24, Milano. Jazzista e conduttore radiofonico dall'MIT di Boston è venuto a trovarci. In visita nei nostri studi facciamo la conoscenza di Ken Field. I play many different kinds of music. I play saxophone and I play flute and I play a little bit of percussion. Suono molti tipi diversi di musica. Suono il sassofono, il flauto e un po' di percussioni. La mia musica è di vari stili. Suono con un ensemble strumentale molto sperimentale, i Bird Songs of the Mesozoic, un gruppo con due tastiere, chitarra e sassofono. Il gruppo si è formato nel 1980, molti anni fa. Suona musica in gran parte scritta, ispirata alla musica classica moderna, ma con tipi diversi di strumenti. I also have my own group, it's called the Revolutionary Snake Ensemble. Ho anche il mio gruppo, il Revolutionary Snake Ensemble. Non suoniamo musica composta, ma facciamo quasi esclusivamente improvvisazione. Le nostre influenze sono le brass band di New Orleans, ma anche funk e moderno jazz sperimentale. È un mix di almeno tre stili diversi. Suono anche jazz più tradizionale nella mia città, a Boston, e ho anche una carriera da solista. Ho realizzato tre CD, nei quali suono da solo più linee diverse di sax, a volte accompagnato con basso e batteria, ma spesso solo con il mio sax contralto. Three CDs of this kind of music, with sometimes with bass and drums, but with layers of alto saxophone. Nella mia carriera mi sono focalizzato sui lavori come musicista, compositore e performer, ma ho anche la grandissima opportunità di presentare al pubblico la musica di altri nel programma radiofonico che conduco da 7-8 anni in una stazione di Cambridge, nel Massachusetts, vicino a Boston, una stazione dell'MIT, la famosa università. And I do a program once a week called The New Edge. It's a program that presents. Il mio programma, The New Edge, va in onda una volta alla settimana. Si trova anche online, presenta musica moderna, strumentale, creativa, di una varietà di stili. Musica classica moderna, musica improvvisata moderna, a volte musiche dal mondo, musica elettronica, ambient. L'unico criterio è che mi piaccia. Così presento questa musica una volta alla settimana. Ed è un'opportunità straordinaria poter ascoltare tanta bella musica che arriva da tutto il mondo e condividerla con tutti quelli che ascoltano il mio programma. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.